Storie italiane. La matita magica. C'era una volta una piccola città chiamata Nuvoloso. A Nuvoloso viveva un geniale artista di nome Albert. Albert era così bravo nel suo lavoro che molte volte le persone scambiavano i suoi dipinti con oggetti reali. Dipingeva ritratti di persone ricche nella sua città e guadagnava bene. Portava le sue tele ovunque e sceglieva casualmente un luogo e iniziava a disegnare. Era un bozzettista geniale. Disegnava tramonti, frutta, ritratti umani e tutto era sempre molto realistico. Ma dal momento che era una piccola città, non vi erano poi così tante cose da poter dipingere. Più il tempo passava, più doveva lottare per trovare qualcosa da dipingere. Al fiume dove di solito andava Albert a dipingere il tramonto, vi era un bellissimo albero. Albert adorava quell'albero. Aveva dipinto quell'albero sulla tela così tante volte, eppure non si annoiava mai. Parlava all'albero come ad un umano. Oh, andiamo, albero. Arruffa un po' le foglie. Sai, a volte sembra che tu possa sentirmi. Ma Albert non sapeva che c'era qualcuno sull'albero che lo sentiva e amava i suoi disegni. Era Pickle, il folletto. Quell'albero era la casa di Pickle. Era molto timida e amava le foglie verdi e fitte che la mantenevano fresca e al sicuro. Ah, vorrei tanto che potessi sentirmi ed aiutarmi, lo sai? Non c'è lavoro in questa città adesso. Posso partire per andare in un'altra città, ma è qui che si trova la mia casa. Non posso lasciare questo posto. Ma suppongo che dovrò farlo ora. Tutto quello che so fare è dipingere. E non ci sono abbastanza acquirenti per i miei quadri qui. Penso che dovrò trasferirmi in un'altra città. Dopo che Albert se ne fu andato, Pickle sembrò triste. Oh, non voglio che se ne vada! Adoro i suoi dipinti! È un uomo così intelligente e onesto! Vorrei che più persone comprassero i suoi quadri! Aspetta, questo non è il vero problema. Il vero problema è che non è in grado di guadagnare. Non posso costringere le persone a comprare i suoi dipinti, ma posso aiutarlo a ottenere quello che vuole. Dopo aver pensato per un po', Pickle si precipitò al suo albero cavo e cominciò a lavorare. Lavorò tutta la notte e il giorno dopo Pickle era pronta con la sua creazione. Era una matita molto lucida e splendidamente scolpita. Ah ah! Questo aiuterà Albert! Quel pomeriggio, quando Albert, come al solito, andò a dipingere il suo albero preferito, lì su una roccia vide la matita. Wow, è così luccicante! È la matita più bella che abbia mai visto in tutta la mia vita! Mi chiedo di chi sia. Forse non dovrei raccoglierla. Il vero proprietario verrà a cercarla. Albert se ne andò senza dipingere l'albero quel giorno. Era molto irrequieto per aver lasciato la matita alle spalle, ma non voleva prendere qualcosa che poteva appartenere a qualcun altro. Il giorno dopo, Albert andò al suo albero prima del solito. Sperava segretamente di vedere quella matita sulla roccia. Ed eccola! Oh, è ancora qui! Forse non appartiene a nessuno. Ho sentito storie su questa foresta. Forse sono reali. Forse c'è della magia qui. Albert prese la matita e la esaminò. Quindi tirò fuori la sua tela e cominciò a disegnare una bella foglia. Questa matita è incredibile. I miei disegni non sono mai stati così belli. Oh, aspetta! Che cosa succede? La foglia stava prendendo vita. e in pochissimo tempo c'era una vera foglia seduta sul suo foglio. Com'è possibile? Albert prese con cura la foglia e la mise da parte. Per fare un'altra prova, iniziò a disegnare una mela. Non appena finì di disegnarla, questa prese vita. Oh no! Questa è una matita magica! Posso disegnare tutto ciò di cui ho bisogno! La felicità di Albert fu davvero immensa. Saltò di gioia e corse a casa. Pickle vide che Albert se ne stava andando e fu felice di aver aiutato il suo talentuoso amico. Sapeva di aver fatto la cosa giusta e sapeva che Albert avrebbe saggiamente usato la matita. Non appena Albert fu arrivato a casa, tirò fuori tutte le sue tele, felice di disegnare qualsiasi cosa di cui avesse avuto bisogno. Per prima cosa disegnò cibi deliziosi. Dalla fretta però, anziché disegnare un vero mango, disegnò un cerchio. Non accadde nulla. Lo cancellò e provò a disegnarlo ancora, ma era così eccitato che di nuovo fu capace di disegnare solo una brutta forma ovalea. E ancora una volta non accadde nulla. Alla fine, calmando i suoi nervi, Albert ricominciò a disegnare. Questa volta fu paziente e usò la sua abilità per disegnare un mango. Immediatamente apparve un mango. Quindi questa matita mi darà soltanto le cose che disegnerò attentamente e perfettamente sulla tela. Quello che Albert non sapeva era che la matita era fatta apposta per lui. Nessuno in tutta la città poteva disegnare così perfettamente come faceva lui. Pickle lo sapeva. Così fece in modo che nessuno avrebbe potuto rubare la matita ad Albert per abusarne. Voleva anche che Albert rimanesse sempre calmo quando usava la matita. Sapeva quanto fosse importante non perdere la calma in nessuna situazione. Una volta che Albert capì come usare la matita, niente lo poté fermare. Disegnava tutto ciò di cui aveva sempre sognato. Cibi deliziosi, raccolti, vestiti, oggetti d'antiquariato per la sua casa. Usò le sue tinte per colorare i suoi schizzi e disegnò fiori freschi ogni giorno. Albert era molto felice e conduceva una vita molto confortevole. Ma presto diventò troppo comodo. Bene, e adesso? Ho tutto ciò che voglio. Cos'altro posso fare con questa matita? Perché non aiutare la mia gente qui? Posso disegnare tutto ciò che gli serve. Come deciso, Albert andò da tutti i suoi amici più stretti nella città e spiegò loro tutto. All'inizio nessuno volle credergli. Oh, andiamo, hai troppo tempo libero a disposizione. È vero, hai anche iniziato a narrare storie ora? Questa non è una storia. Aspetta, che ti faccio vedere. Albert sapeva che il suo amico aveva bisogno di un trattore per lavorare meglio nei campi, ma a causa della mancanza di denaro non era in grado di comprarne uno. Albert prese un foglio e disegnò con attenzione un trattore. Ok, ora fatevi tutti da parte. In pochissimo tempo, davanti a loro apparve un vero trattore. Tutti lodarono Albert. Dopo quel giorno, Albert aiutò molte altre persone. Condivise il suo dono con tutti senza esitazione. Le persone a Nuvoloso erano generose e lavoravano sodo. Nessuno aveva mai chiesto niente di cui non avesse bisogno. I giorni passarono e un turista venne a visitare la città. Mentre camminava, si rese conto che c'era qualcosa di strano a Nuvoloso. Sebbene fosse una piccola città, la gente sembrava vivere una vita migliore. Decise di informarsi. Chiese in giro e gli innocenti abitanti di Nuvoloso gli dissero tutto. Matita magica. Sarà vero? Devo andare a vedere questo pittore. Il turista era un uomo molto avido. Si nascose dietro un albero e non appena vide Albert, lo rapì. Ah, chi è? Basta, ascoltami. Non ho tutto il giorno per questo, va bene? rapidamente. Disegnami tanti rubini diversi e costosi ed un sacco in cui metterli. Ora! Albert tirò fuori la sua matita e cominciò a disegnare. Ma era così spaventato che tutto ciò che riusciva a disegnare erano rocce. Cosa sono queste? Come ti permetti di scherzare? Spostati! Disegnerò da solo la più lucente catena d'oro! Il turista non era un artista. In effetti, era terribile a disegnare. Quando cercò di disegnare una catena d'oro, apparse un serpente lungo e brillante. Ah! Aiuto! Ma mentre il turista stava cercando di scappare dal serpente, Albert si calmò e disegnò una grande gabbia. Non appena apparve la gabbia, il turista entrò e Albert chiuse la porta. Dopo che il serpente se ne fu andato, Albert chiamò la polizia e denunciò il turista. Spiegò loro come questo lo avesse rapito per usare la matita magica per soddisfare la sua avidità. La pace tornò nuvoloso. Tutti furono orgogliosi di come Albert avesse gestito la situazione. Albert stesso aveva imparato una lezione molto importante. Si rese conto di quanto potesse essere pericoloso ottenere cose senza aver bisogno di lavorare. Decise di seppellire la matita sotto la roccia dove l'aveva trovata. Si crede che la matita magica sia ancora sepolta vicino all'albero preferito di Albert, un albero abitato da un piccolo folletto.